Uno, due, tre. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Allora siamo qui, cari ascoltatori, sono le 7:16 minuti, sarò qui oggi, siamo qui anche domani, andremo in onda fino alle 9:30 domani con 24 mattino. E invece settimana prossima sarò in ferie, va bene? Lunedì, vabbè, Pasquetta non saremo proprio in onda e poi da martedì ci saranno migliorati fino a venerdì prossimo. Allora, 7:16 minuti, chi avremo ospite oggi alle 8:15? Avremo ospite il marciatore Alex Schwatzer, trovato positivo al doping poco prima delle Olimpiadi di Londra. Ricordate il suo dramma umano e sportivo. Ora Alex Schwatzer vuole ripartire. Lo fa affidandosi al guru dell'antidoping, il professor Sandro Donati, che da anni si batte per uno sport pulito. Saranno ospiti da noi dalle 8:15 Alex Schwatzer e il professor Sandro Donati per capire se è solo un tentativo di ricostituire una sorta di verginità sportiva o se davvero Alex Schwatzer vuole ripresentarsi al grande pubblico e come lo farà, insomma, dopo questa certamente vergogna del doping di 4 anni fa. Avremo ospite anche Guido Veneziani. Chi è? È il nuovo editore che vuole rilanciare l'Unità, pare dal 25 aprile, ma gli chiederemo se questa è la data in cui ricomparirà l'Unità in edicola. Intanto andiamo a leggere per l'appunto i giornali. In questo giovedì 2 aprile i titoli intanto, molti dedicati alla prima approvazione della legge anticorruzione. Corruzione sia la riforma, stretta sul falso in bilancio, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, mentre il Messaggero, falso in bilancio, torna al reato, intercettazioni, niente decreto. Per Repubblica, corruzione scatta la linea dura. La Stampa invece, il falso in bilancio è di nuovo un reato, pene fino a 8 anni. Poi titoli invece diversi, attacchi nel cuore di Istanbul, questo è il Corriere della Sera, la prima pagina. D'Alema, non regge il vino, il Giornale, titolo di prima pagina. Mentre Libero, come non farsi fregare dal nuovo 7:30 di Renzi. Il Fatto Quotidiano invece, governo, la macchina del falso, i nuovi posti di lavoro annunciati dal ministro Poletti, 79.000, poi si scopre che erano quasi la metà e la disoccupazione cresce. Mentre tutti in riga, questo è il titolo del manifesto di prima pagina, 8 senatori di tutti i gruppi tranne SEL denunciano in procura l'ostruzionismo del Movimento 5 Stelle sullo sblocca Italia come attentato agli organi costituzionali. È una vicenda un po' minore di politica, ma che merita la prima pagina per il manifesto. E invece Avvenire ha un titolo di prima pagina che vedremo tra poco perché lo voglio leggere. Prima però voglio raccontarvi, come racconta il giornale, di quello che è successo a Niscemi in provincia di Caltanissetta. Esultano i comitati anti-MUOS. Cos'è il MUOS? È questo sistema, un acronimo, un sistema di comunicazioni satellitari gestito dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Sono satelliti, stazioni a terra per una difesa, appunto, una difesa. E però i comitati anti-MUOS dicono e si battono da anni dicendo che fa male per le radiazioni, eccetera. Ora hanno segnato un punto di vittoria. Il PM e quindi il Tribunale, la Procura di Caltagirone sequestra l'impianto del MUOS. Perché? Perché è stato costruito là dove c'era divieto assoluto di edificabilità. Esultano i comitati, racconta Felice Cavallaro a pagina 21 del Corriere della Sera. Di certo c'è solo che da ieri il MUOS è stato sequestrato dalla Procura di Caltagirone, come accadde nell'ottobre del 2012, quando le mega antenne piazzate da tecnici e militari americani furono bloccate dagli stessi magistrati competenti per territorio. Subito poi smentiti dal Tribunale del Riesame, che 3 settimane dopo riaprì i cancelli. E ci furono scazzottate, nuovi esposti tra le campagne di Niscemi sull'altipiano che domina il mare inquinato del petrolchimico di Gela, dove preoccupate per i loro bimbi dalle emissioni elettromagnetiche esultano oggi le mamme e i sindaci della zona, oltre che gli ambientalisti da mesi mobilitati per organizzare un mega raduno sabato prossimo, che a questo punto sarà un raduno più con il profumo di vittoria. Su questo tema anche Mario Giordano dedica, in maniera per la verità un po' polemica e diversa, un editoriale in prima pagina di Libero. Nuova eroica impresa dei giudici italiani, stop al sistema di difesa. Ce l'abbiamo fatta, esulta ironicamente Giordano. La procura di Caltagirone ha arrestato le antenne militari americane per violazione del vincolo paesaggistico di inedificabilità in una riserva naturale. Impianto sequestrato. Qualche giorno fa il TAR aveva ordinato il blocco dei lavori. A questo punto ci manca solo il pretore del lavoro che condanni per mobbing il sergente maggiore di Full Metal Jacket e il GIP che disponga i sigilli al Pentagono in nome della geometria euclidea. E poi la figuraccia internazionale sarebbe completa, così la nostra fragilità. Il sindaco di Niscemi dice che al posto del MUOS vuol metterci un ecomuseo delle scienze. Perfetto! Così quando i terroristi ci attaccheranno potremo rispondere a suon di etnografie e fattorie didattiche. Insomma, è una storia tipicamente italiana, dice Mario Giordano, tribunali che sequestrano impianti. E la polemica del giorno è servita. Ma come dicevo, la prima pagina del quotidiano Avvenire l'ho tenuta per ora perché volevo approfondire quello che è il titolo. Fermiamo l'azzardo, appello in quattro mosse. È il titolo di prima pagina. Avvenire da tempo, da sempre, fa una campagna contro il gioco d'azzardo legalizzato, ora propone un manifesto unitario di tutte le associazioni che si battono contro il gioco d'azzardo legalizzato. Un manifesto che viene proposto a pagina 9 si basa su quattro punti. Il primo, divieto totale di pubblicità dell'azzardo su carta stampata, TV, internet, cartelloni e sponsorizzazioni. Secondo punto, comuni e regioni devono poter avere la possibilità di tutelare la salute dei cittadini introducendo ulteriori argini alla presenza dell'azzardo nei territori di loro competenza. Punto 3, la cura dei giocatori patologici spetta non all'industria dell'azzardo ma allo Stato. E infine 4, moratoria per nuovi giochi d'azzardo, contenerne il consumo, ridurre i danni correlati. In questi quattro punti viene proposto il manifesto che vede alcune associazioni, anche Riccardo Bonacina di Vita, che spesso è stato nostro ospite, Slot Mob, la Consulta Nazionale Anti-Usura. Ecco il manifesto unitario delle associazioni Azzardo, 4 impegni inderogabili, lo trovate su Avvenire a pagina 9 per chi voglia approfondire. Mentre Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera oggi analizza quello che l'ex commissario alla spending review Cottarelli aveva nei suoi tavoli di lavoro messo in evidenza già un anno fa. Ieri è stato reso noto tutto questo lavoro, su internet è anche disponibile ora finalmente per i cittadini. E Gian Antonio Stella si concentra su uno dei punti che Cottarelli ha sottolineato, ed è questo: i misteriosi costi dei politici. Prima pagina del Corriere, l'editoriale, misteriosi e non accessibili. Sono sassate le parole del rapporto Cottarelli per spiegare i troppi dubbi sui canali attraverso cui i soldi seguitano ad arrivare alla cattiva politica. Sassate che mandano in pezzi la bella vetrina luccicante dove è stata esposta agli italiani l'abolizione del finanziamento pubblico. Lo aveva già detto Cottarelli in un'intervista al Corriere a Beppe Severgnini: spesso molti documenti non mi venivano neppure dati, ma non per cattiva intenzione, ma perché non facevo parte della struttura. Eccolo allora il dossier numero 5, in cui si legge: restano misteriosi e non accessibili molti dei flussi finanziari che rappresentano forme diverse di finanziamento del sistema della politica. Vale per le fondazioni, dai nomi altisonanti che in assenza di regole chiare sono ripetutamente coinvolte volte in pasticci troppo spesso dai risvolti giudiziari. Vale per i privilegi figli di altre stagioni accanitamente difesi, come le prebende ai giornali di partito, le agevolazioni postali 0,04 euro a lettera che si traducono in un credito di Poste Italiane nei confronti del Tesoro per 550 milioni, oppure l'IVA sulla pubblicità elettorale, sapete quant'è? Al 4%, ovvero la stessa aliquota vigente per i beni di prima necessità. Vale infine per le agevolazioni fiscali più generose concesse a chi regala soldi a questa o quella forza politica, invece che ad esempio a una Onlus impegnata nell'assistenza ai malati terminali. Per non dire di leggi, leggine che sembrano studiate apposta per sollevare fumo. Un esempio è questo, comma 3 dell'articolo 5 dell'ultima legge sul finanziamento pubblico, dove nella brodaglia di 342 parole, astrusità e tecnicismi, si spiega in sostanza che il nome di chi dona fino a 100.000 euro a un partito, se non sono soldi in contanti, va pubblicato, ma solo nel caso dei soggetti quali abbiano prestato il proprio consenso. Evviva la trasparenza. E così via, sciorina, Gian Antonio Stella, tutto l'elenco di quei misteriosi conti dei politici e i misteriosi percorsi, misteriosi e non accessibili, come li ha definiti Cottarelli, delle modalità che servono a finanziare la politica. Ma ragazzi, invece, se siete sul treno, questo è il momento di tenere i braccioli ben stretti. È un po' la versione delle ferroviaria del nostro mani sul volante, l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata. Per la verità è una pagina di Marco Lillo che racconta l'inchiesta della Procura di Milano, Ferrovie Nord, bar, profumi, multe stellari a spese nostre. C'è un'inchiesta a Milano sui rimborsi della società Ferrovie Nord controllata dalla regione Lombardia e si parla per esempio di una multa da 1.000 euro per contravvenzione al codice della strada presa in Svizzera, e il presidente dice è mia, ero io alla guida, Norberto Achille, il presidente di Ferrovie Nord Milano. Ma in totale al fatto risulta che siano state pagate multe per la dirigenza evidentemente di Ferrovie Nord di 170.000 euro. Ma non solo, la spesa più divertente è quella di 20 euro al negozio Sergio Zanni a Milano, che non si occupa di treni ma di servizi e toeletta per animali domestici. 20 euro! Oppure Ferrovie Nord si dedica anche all'arte, ha comprato la Galleria d'Arte Sacerdoti a due passi di via Monte Napoleone, tre oli su tela per 17.000 euro, due dipinti di scuola napoletana del XIX secolo, una natività di scuola lombarda del XVI secolo. Oppure tra le spese più dure da giustificare, scrive Marco Lillo sul Fatto, quelle sui siti internet di pokerbwin.it o pokerinvenice.com, e quindi gioco d'azzardo legalizzato online. E il Fatto Quotidiano va a intervistare il presidente Norberto Achille, che dice: ma che volete? Mica sono soldi pubblici. Questo è il titolo dell'intervista. La multa da 1.000 euro l'ho presa io e non c'è nulla di male. Non siamo una società pubblica. Ma le multe delle auto? La società mette alcune auto a disposizione della presidenza e degli altri del consiglio che ne hanno bisogno. Sì, ma sono stati acquistati anche quadri per 17.000 euro. Dove sono finiti? E a me lo chiede? Certo, lo chiedo a lei, la Regione Lombardia e le FS e le ferrovie controllano Ferrovie Nord e quindi sono soldi pubblici. Ma cosa dice, risponde il presidente, Ferrovie Nord è una SPA quotata in borsa che fa utili, non gestisce soldi pubblici. Vabbè, il Fatto Quotidiano, se siete sul treno, braccioli ben stretti, Ferrovie Nord, bar, profumi, multe stellari a spese nostre. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il Franco Baresi dell'informazione. Che cribio, come ci servirebbe Baresi. Porca miseria, sì, hai ragione. Caro ascoltatore, invece compriamo Paletta e Bocchetti. Mamma mia. Vabbè, dai. Allora, vedete l'effetto mediatico evidente, plastico nella rappresentazione dei giornali? La vicenda di Ischia. le notizie sull'inchiesta sono a pagine, una mezza pagina sugli sviluppi dell'inchiesta, ma ormai la vicenda D'Alema, la chiamo così, vicenda D'Alema, anche se D'Alema non è indagato, ma ha sopravanzato di importanza la vicenda dell'inchiesta di Ischia. Cioè D'Alema, che ricordiamo è finito in queste intercettazioni perché alcuni indagati, poi arrestati, parlano di lui dicendo finanziamo la sua fondazione perché poi lui mette le mani nella M e ci dà qualcosa. E poi la vicenda dei vini prodotti dalla famiglia D'Alema e comprati dalla CPL Concordia, la cooperativa che è finita in questa indagine. D'Alema ieri è sbottato, poi se l'è presa con un cronista, l'inviato di Virus, che le ha fatto una domanda dicendo: ma senta, lei ha confuso una convention del PD con la vendita dei vini. D'Alema si è infuriato: ma non era nessuna convention del PD, abbiamo venduto regolarmente dei vini alla CPL Concordia, poi lei mi dia il suo nome, io la denuncio, la querelo, mi dia il nome che lo devo dare all'avvocato. L'ira contro un cronista, poi per la verità ha frenato D'Alema dicendo: sono dispiaciuto, ma certo il giornale la mette così, il vino dà alla testa. D'Alema si infuria e minaccia il cronista, interviene anche il sindacato della stampa, la FNSI, vabbè, loro si arrabbiano subito, quesiti sempre legittimi, come dire, una domanda è sempre legittima, anche se effettivamente la convention del PD non c'entrava niente, cioè questo dato di fatto c'è. Comunque il migliore di questa vicenda è come sempre Iena, vale a dire Riccardo Barenghi sulla Stampa, pagina 3. Bicchieri: ieri ho incontrato D'Alema e l'ho invitato a bere un bicchiere di vino, mi ha querelato. Questo Iena oggi sulla Stampa a pagina 3. Certo, tutti poi raccontano i rapporti come sempre un po' burrascosi tra D'Alema e i giornalisti. Addirittura Repubblica, questo per dire come ben prima della cronaca giudiziaria venga ormai quasi, verrebbe da dire, anche un po' il gossip, Repubblica va con Concetto Vecchio nella tenuta di D'Alema a incontrare la moglie, che per la verità oppone una resistenza dicendo: no no, guardi, lasci stare. Comunque eccolo qua il racconto ad Anarni, in provincia vicino a Terni, pagina 6 e 7 di Repubblica. Ecco la Madeleine, l'azienda vinicola di Massimo D'Alema, una magione a due piani color rosso vinaccia con accanto una dependance incastonata in 15 ettari di terreno, di cui 6 ettari e mezzo impegnati a vigneto. Ma proviamo ad arrivare, intanto ci avvicina un cane, Aiace, di cui D'Alema dice è buonissimo, ma se percepisce il pericolo può uccidere. E allora eccola qua, dottoressa Giuva, cioè Linda Giuva, la moglie di D'Alema: è possibile visitare la tenuta? No. E perché? In genere sono molto inclusiva, ma ora sono molto dispiaciuta di come la stampa stia trattando l'argomento. Inoltre non le darei maggiori informazioni di quello che può trovare sul sito. Anch'io vorrei fare il mio lavoro di produttrice di vino, onesta e laboriosa, senza dover essere inseguita da insulti e basse insinuazioni. Ma scusi, almeno può dire, è pubblicità? Beh, in effetti, dice la moglie di D'Alema, abbiamo avuto in queste ore una impennata di ordini inimmaginabile. Ex malo bonus, cioè dal male il bene. Vabbè, niente, non riesce a entrare nella tenuta. Repubblica poi fa un viaggio in paese a raccogliere gli umori di quella che è la situazione di questa inchiesta. Ecco poi che finalmente a pagina 8-9, dopo essersi dedicati a D'Alema e alle sue vicissitudini anche nel rapporto con i giornalisti, arrivano gli sviluppi dell'inchiesta. Certificati antimafia, soffiate, appalti, così la rete di Simone favoriva la Coop. Simone è il responsabile delle relazioni istituzionali di questa cooperativa, la CPL Concordia, è per gli inquirenti l'uomo chiave, colui che ha intrecciato tutti i rapporti. Per la verità gli sviluppi sono il rapporto per il certificato antimafia con un collaboratore, l'assistente del prefetto di Modena. E poi spuntano anche degli imprecisati leghisti, eccolo qui: molti documenti relativi all'attività in corso risultano coperti da omissis, però un intero capitolo è dedicato alla gara d'appalto per il comune di Melegnano in Lombardia, presumibilmente nel settore ospedaliero, per il quale andranno in regione a parlare con Robertino, che potrebbe essere un dipendente, viene definito così, Robin Hood Robertino, che ha allacciato rapporti con i leghisti. Questo dicono alcuni degli intercettati. Il direttore commerciale Andrea Ambrogi, in una conversazione intercettata, dice così: Robin Hood Robertino ha allacciato i rapporti con i leghisti. Mi dici quali sono le scadenze, le persone? Voi mi date sti 30.000 euro che loro devono andare all'estero a pagare i biglietti. Non si capisce molto questo straccio di intercettazione, ma finisce sui giornali. Va bene, intanto ieri però è stata la giornata in cui c'è stata l'approvazione in prima lettura al Senato del falso in bilancio, la legge anticorruzione, che ripristina di fatto il falso in bilancio. Come racconta in due pagine, sono le più esaustive, le più comprensibili, Giovanni Negri sul Sole 24 Ore, eccolo qua, pagina 2, poi a pagina 3, il giro di vite sulle pene, l'aumento di tutte le sanzioni, rispunta il falso in bilancio. Nel merito, scrive Negri, il disegno di legge che ora passa alla Camera ha un evidente filo conduttore: l'aumento generalizzato delle sanzioni per reati contro la pubblica amministrazione, a partire dalla corruzione propria, che passa una forchetta 6-10 anni, per finire a quelle in atti giudiziari 6-12 anni, non trascurando l'induzione indebita, il peculato, la corruzione impropria. Ma nel segno di una maggiore severità vanno anche le misure sul licenziamento del pubblico dipendente oggetto di condanna o la sospensione dall'esercizio della professione, oppure ancora l'allungamento dell'interdizione a contrattare con la pubblica amministrazione. Comunque tutti i dettagli li trovate sul Sole. C'è da dire che il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, cioè il sindacato dei magistrati, Rodolfo Sabelli, intervistato da Repubblica, pagina 3, dice: un passo avanti ma non basta, va combattuta la corruzione come andrebbe combattuta la mafia. È un passo certo in avanti, è un'inversione di tendenza che non può far considerare però chiuso l'intervento sulla corruzione. Per la corruzione non sarà possibile utilizzare gli strumenti di indagine della mafia, a partire da intercettazioni, ritardato sequestro, attività sotto copertura. E questo non è un bene, dice Sabelli. Poi la riforma del traffico di influenze e corruzione privata, puniti con una pena massima di 3 anni, palesemente inefficace. Non c'è neppure la riforma del reato di induzione indebita. E sul nuovo falso in bilancio, dice Sabelli, c'è una decisa inversione di tendenza rispetto alla riforma del 2002, però vedo dei limiti, a partire dal fatto che non si potranno fare intercettazioni per i falsi delle società non quotate. Qualche incertezza potrebbe venire dal fatto che si parla di fatti materiali non rispondenti al vero. Toccherà alla giurisprudenza chiarire la nozione di fatti materiali. Insomma, tecnicismi. Comunque, il primo passo al Senato è stato fatto, ora alla Camera vedremo quando. Mentre domani ci sarà il rimpasto di governo. Attenzione, ma teniamo un po' di suspense. Prima però voglio salutare infatti Mauro Meazza. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Quindi non mi proponi più? Ieri... Suspense. Ieri eri stato così benevolo nei miei confronti e poi avevi detto no, però serve una donna, e purtroppo insomma uno può fare molte cose per servire anche il paese, però insomma, non tutto può essere nelle nostre disponibilità. Volevo dirti, oltre al falso in bilancio di cui molto hai detto, sai che oggi sul Sole 24 Ore ci sono parecchie cosucce da leggere. Ti piace cosucce, che è un po' fintamente diminutivo, perché in realtà parliamo di contratto dei bancari. C'è l'accordo, lo spieghiamo nei dettagli, nelle pagine di Imprese e Territorio. 85 euro, non si dice euro naturalmente, si dice euro, ma era per un'assonanza con i tuoi 2 eurini. Tutti i dettagli, tutti i particolari in Imprese e Territorio. E poi un altro accordo importante è quello raggiunto con il Vaticano in termini di trasparenza ai sensi dei capitali, movimenti dei capitali. Ne parliamo questa volta in norme e tributi. Faccio solo una precisazione a beneficio specialmente dei professionisti che si stanno occupando in questi mesi di voluntary disclosure. Attenzione, perché questo tipo di accordo è retroattivo, cioè ha una valenza che risale fino al 2009, ma potete apprezzare tutti questi particolari appunto nelle pagine oggi di Norme e Tributi. E poi c'è questo, spero si fa per dire, dei dati sul lavoro, lì invito tutte. No, cosa c'entra gufo? Abbiamo, guarda, c'è un lavoro veramente accurato, una pagina veramente accurata fatta da Giorgio Pogliozzi e Claudio Tucci che gufi. Spiegano. Beh, va bene, allora se finiamo con questa cosa animalesca, però loro cercano di spiegare, anzi loro spiegano, poi se tu non vuoi ascoltare, come è possibile questo fatto che girano dei dati, alcuni di un segno e altri di un altro. Te l'ho detto che in Italia anche i numeri mica sono così certi, uno più uno fa due, questo lo dici comunque tu. Comunque diciamo così, se leggi oggi a pagina 5 del Sole 24 Ore alcune cose diventano un po' più chiare, i dati del rilancio che non c'è, questo è un po', invece quello che ci sarà nel 2015 è lo sbarco in borsa delle Poste, l'IPO, tutto questo raccontato in Finanza. E poi ti segnalo in ultimo, ma così per una lettura anche di cultura generale, il lavoro che presentiamo nelle pagine di commenti sulle classifiche. Sai che queste classifiche internazionali ci mettono sempre in questi posti, 167esimo posto per non so, per tutto, anche per qualsiasi cosa. Più che altro quello che lascia perplessi è che davanti a noi, che magari ci meritiamo anche di tutte le peggiori ignominie, finiscono paesi che non diremmo così più virtuosi di noi. Ecco, ma perché succede? Perché molti dati sono soggettivi, cioè è come noi stessi ci percepiamo, talvolta forse ci facciamo più brutti di quello che siamo, mettiamola così non mi puoi dare del gufo almeno. Guarda, avrei molte altre cose da dirti, ma fa niente, vediamo domani, e per adesso solo una parola, caro Alessandro. Traffico. Alessandro Milan, il Rossello Brescio dell'informazione. È un grande classico. Allora, il rimpasto di governo, come detto, domani è previsto il giuramento di Graziano Del Rio come nuovo ministro alle infrastrutture e ai trasporti al posto di Lupi che si è dimesso, e quindi questo sposta un po' gli equilibri, perché NCD perde un pezzo di governo, Lupi per l'appunto, e a NCD forse andrà il Ministero degli Affari Regionali che è rimasto vacante dopo la perdita di ministro Lanzetta. Però, racconta Francesco Verderami sul Corriere, Renzi al colle col nome di Del Rio, l'ira di nuovo centrodestra che prende tempo, perché il Premier salirà al Quirinale domani per il giuramento di Del Rio come titolare delle infrastrutture, annuncerà al capo dello Stato il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ma non porterà con sé un ministro centrista in sostituzione di Lupi. Ecco allora, il caso NCD resta aperto, sarà risolto forse la prossima settimana. Di fatto c'è un problema politico con il nuovo centrodestra, racconta Verderami, che è in subbuglio, addirittura si è trasformato in una polveriera ieri dopo che sono stati diffusi i nomi di chi potrebbe andare al Ministero degli Affari Regionali, perché il nuovo centrodestra voleva Quagliariello, ma Renzi dice no, io voglio una donna. Per mantenere anche gli equilibri. Allora, intanto una donna pare che ci sarà a sostituire Del Rio, cioè c'è lo spostamento, immaginate delle carte che si spostano. Del Rio, che è sottosegretario alla presidenza del Consiglio, va al Ministero delle Infrastrutture. Chi viene a sostituire Del Rio alla sottosegretario alla presidenza del Consiglio? In pole position c'è Antonella Manzione, che è una fedelissima di Renzi, da quando era capo dei vigili urbani a Firenze, con Renzi sindaco, poi Renzi da premier l'ha portata come capo ufficio legislativo di Palazzo Chigi, e ora vorrebbe metterla al posto di Del Rio. Governo in stallo, il rimpasto slitta, così titola Il Giorno, ma slitta pare a domani. Manzione in pole per il dopo Del Rio. Mentre per Repubblica, domani il rimpasto, Del Rio alle infrastrutture, una donna sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Anche qui Antonella Manzione viene data in pole position. Vabbè, vedremo cosa succede. Intanto cosa succede al Senato? Succede al Senato che ieri si è presentata la Procura. voleva indagare, vogliono indagare nei confronti di alcuni senatori del Movimento 5 Stelle perché 9 parlamentari sono Gabriele Albertini, Lucio Barani, Enrico Buemi, Stefano Candiani, Franco Conte, Nadia Ginetti, Carlo Giovanardi, Fausto Longo, Stefania Pezzopane, hanno denunciato i grillini per l'ultime la questione dello sblocca Italia, quando c'erano state delle proteste in aula, perché il reato ipotizzato era sospensione di che cosa? Me lo sono perso. Sospensione dell'esercizio delle funzioni di un organo costituzionale. Questo in pratica è il reato ipotizzato. E allora si sono presentati. Si è presentata la procura alla Camera, o meglio al Senato, ma il presidente del Senato, Grasso, ha detto non potete indagare qui. I PM sono entrati in azione dopo la denuncia di alcuni senatori di cui i parlamentari del 5 Stelle erano completamente all'oscuro. Lo apprendono ieri in aula. L'inchiesta della procura è questa, riferita agli scontri in aula durante il provvedimento Sblocca Italia il 5 novembre scorso. Un'inchiesta nata appunto da un esposto firmato da 9 parlamentari di 5 partiti diversi. Però Grasso dice alla procura non potete entrare qui perché ha voluto affermare il difetto assoluto di giurisdizione della magistratura ordinaria sulla condotta dei senatori nell'esercizio delle loro funzioni. Caos in aula. Inchiesta sui 5 Stelle, ma Grasso ferma la procura. Trovate la cronaca a pagina 12 del Corriere della Sera. A proposito di Corriere, si è arrabbiato moltissimo Flavio Tosi, sindaco di Verona e candidato alla Regione Veneto, dopo che la procura antimafia, o meglio la commissione parlamentare antimafia presieduta da Rosi Bindi, ha ipotizzato lo scioglimento del comune di Verona per infiltrazioni mafiose. Tosi fa un'intervista al Corriere, si difende dicendo è una cosa incredibile, ridicola, anzi una cosa da cialtroni. Addirittura da cialtroni, presidente sindaco Tosi. Come sarebbe, mi chiede, perché da cialtroni? A Verona non esiste un appalto, un dipendente, un dirigente, un amministratore che abbia in corso procedimenti per quel tipo di reati. No, guardi, Rosi Bindi non è degna di presiedere quella commissione. Penso che una commissione antimafia sia una cosa seria, ma se il suo presidente suggerisce qualcosa che non ha presupposti poco prima delle elezioni, cosa posso pensare? Che stia facendo campagna elettorale. Ed è stata una mossa anti-renziana. Come anti-renziana? Ma certo, per fare un dispetto a Renzi. Lei è ferocemente anti-renziana. Forse le sue dichiarazioni servono per abbassare il consenso a me e aiutare Luca Zaia a vincere in Veneto contro la candidata renziana Alessandra Moretti. Ecco, questo è il disegno politico secondo Tosi. Vabbè, c'è molto anche di notizie estere, ma purtroppo non c'è tempo, c'è solo spazio per raccontare due cose. Oscar Grazioli racconta come sia arrivata l'ora dei verdetti animalisti. Oscar Grazioli sul Giornale, pagina 17, racconta che la Corte d'Appello di Roma è stato riconosciuto il danno economico morale determinato dalla morte colposa di un cane. È stato condannato infatti un veterinario che a causa della sua condotta professionalmente inadeguata ha causato la morte di un cane, ed è stato riconosciuto il danno economico morale ai padroni di questo cane. Tra l'altro Oscar Grazioli dice sarà contento quello zooclasta di Cruciani nel suo baraccone della Zanzara. Ma siamo al momento conclusivo, il momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, lo dico anche in diretta con questa enfasi su Periscope. Eccolo qua, sul Giorno: Grecia senza euro, torna Ratzinger, è la baraonda dei pesci d'aprile. I pesci d'aprile, una pagina sui pesci d'aprile sul Giorno! Ma chi se ne frega!